una lezione sul fianco. Noi facciamo i movimenti per le spalle e per le braccia. In pratica è una specie di orologio fatto sul fianco. Allora, intanto siete supine e cominciate ad osservare gli appoggi di tutte le parti del corpo, partendo dai piedi e arrivando fino alla testa. E cominciate ad osservare come appoggiano i talloni, i polpacci. Quanto distano le ginocchia, le cosce da terra. Come appoggia il bacino a destra, a sinistra. E poi come è messo il coccige, l'osso sacro, l'arco lombare. E come appoggia le vertebre toraciche, le costole, le scapole. Il collo, la testa. E poi come sono messe le spalle e le braccia. Rotolate sul fianco sinistro piegate le gambe a seggiolina, quindi 90 gradi tra gambe e coscia, 90 gradi tra coscia e busto e tronco, e allungate le due braccia avanti. Se un cuscino sotto la testa è troppo poco, mettetene due, ve li ho messi vicino. E adesso, molto lentamente, cominciate a far scivolare la mano e il braccio destro allungati avanti. Quindi fate scivolare la mano destra più avanti della sinistra sul pavimento e tornate senza piegare il braccio e continuate a farlo. Ok, man mano che lo fate osservate come partecipa il resto del corpo. Vi ricordate che il movimento di una parte è il pretesto perché tutto il resto si muova. Tutto il resto si muove come conseguenza del movimento di questa mano e di questo braccio. Quindi allungate il braccio e poi ritornate, ma il braccio rimane allungato, non si piega. E osservate se abbandonate il peso per terra, anche di questo braccio destro. E man mano che lo fate, con l'immaginazione non solo, osservate se questo braccio può diventare ancora più lungo, quindi potete vedere la stessa cosa che ho detto, immaginando che il braccio sia lungo, lungo, lungo, includendo tutto il corpo. E man mano che lo fate pensando in questo modo, osservate cos'altro si muove. Se si muove la testa, il collo, il torace, la schiena, cosa si muove? E osservate come sono messe le dita della mano destra. Ogni volta che avete bisogno di pausa, vi potete mettere supine a pancia in su, anche se io vado avanti. Ok, e smettete il lavoro con la mano e il braccio, e adesso lentamente, tenendo fermo il piede destro, fate scivolare avanti il ginocchio destro e l'anca destra. Quindi il piede destro sta fermo e la coscia, come se fosse un cassetto che si apre, scivola avanti. Avanti, non verso il soffitto, quello è in direzione del soffitto, avanti, intendo dire in questo caso, verso la parete davanti a voi. Piede destro fermo. La coscia destra è appoggiata sulla sinistra, non si solleva, e piano piano scivola avanti, proprio avanti, come avete fatto prima muovendo avanti la mano e il braccio, fate adesso muovendo avanti il ginocchio e la coscia. Io riesco a fare pochissimo. Quello che puoi. Anche perché rischiate di confondere e invece di venire in avanti andate in alto verso il torace. Allora datevi tempo, mettete il ginocchio un po' più in su se potete, in modo che siano proprio in avanti sul prolungamento delle anche, e scivolate avanti magari 5 mm ma senza andare in alto, quello è un altro movimento. Piano piano piano. Attenzione, bene un piede sopra l'altro. Non vi preoccupate se il movimento è piccolo. Vi ricordate che l'importante è piano piano piano lavorare e vedere come influisce nel corpo, non quanta è l'ampiezza. È la qualità importante, non la quantità. E osservate se respirate o se bloccate il respiro. Ok, adesso rimanete ferme col ginocchio, sempre con un ginocchio ben appoggiato sopra l'altro, e di nuovo avete le braccia avanti l'una sopra l'altra, cominciate piano piano a far scivolare ancora la mano destra sul pavimento davanti a voi in avanti. Quindi mano destra scivola avanti e ritorno. Sempre osservando ed ascoltando cos'altro si muove. Il movimento parte dalla mano che tira il braccio, che tira la spalla, e poi vi accorgerete che tira il collo, la testa, e osservate se si muove anche il torace. Immaginate che il braccio cominci nella colonna vertebrale del torace, quindi fate in modo che il movimento parta e coinvolga il torace. E dopo un po' vi accorgerete che arriva a coinvolgere anche il bacino la gamba destra, il ginocchio destro, il piede destro sta fermo. Movimento morbido, lento, ascoltando come vi muovete. Ok, vi fermate supine, avancio in su, vi riposate un po'. Ok, osservate se c'è qualche minima piccola differenza tra un lato e l'altro e poi ritornate sul fianco sinistro, sempre in posizione seggiolina, quindi 90 gradi, tronco coscia 90 gradi, coscia gamba, braccia allungate avanti una sopra l'altra, palmo contro palmo. E adesso immaginiamo di descrivere l'orologio che facciamo in molte lezioni con altre parti anche del corpo in questa posizione con le braccia che diventano le lancette dell'orologio. Allora, braccia avanti come siete adesso, siete sulle tre dell'orologio. Le 12 sono in basso verso i piedi, le 9 sono dietro di voi, no, sì, le 9 dietro di voi e le 6 sopra la testa, no, scusate, ho sbagliato tutto, le 3 sono avanti a voi, le 6 sono verso i piedi, le 9 sono dietro di voi e le 12 sono su quella testa. Ok. Ok? Ve lo ripeto perché ho fatto confusione. Braccio avanti siete sulle 3, in basso verso i piedi siete sulle 6, indietro siete sulle 9. No, non fate niente adesso, è solo la direzione. E le 12 sono in alto sopra la testa. Chiaro? Ok, adesso siete con le braccia avanti, una sopra l'altra. Quindi se consideriamo le braccia delle lancette, siete sulle 3 e un quarto. Il braccio sinistro è quello delle ore e siete sulle 3. E il braccio destro è quello dei minuti e siete sulle 15. Ok? Adesso continuate le braccia avanti a scivolare avanti e indietro, mandando avanti 3 e un quarto e ritorno, 3 e 16 e ritorno, 3 e 17 e ritorno, 3 e 18 e ritorno, fino ad arrivare al ginocchio e alle 3 e mezza, e le 3 e mezza ovviamente saranno quando arrivate, il braccio sinistro sta fermo. Le 3 e mezza saranno quando col braccio destro arrivate, man mano che scendete un minuto ogni volta, ad appoggiarlo sopra l'anca destra. Vi ripeto, braccio avanti, siete sulle 3 e un quarto e torno, poi andate avanti un po' più in giù e siete sulle 3 e 16 e ritorno, un po' più giù ancora, siete 3 e 17 e ritorno e continuate avanti e indietro fino a che arrivate al ginocchio, saranno più o meno 3,20, 25 e poi salite avanti e indietro nella coscia e poi ad arrivare alle 3 e mezza dove siete con la mano appoggiata sull'anca destra e in questo caso osservate come fate avanti e indietro, come non è più avanti e indietro, ma sarà in su e ritorno, giusto? In giù, scusate, e ritorno. quando con la mano destra andate in giù, siete sulla tre e mezza e ritorno, osservate cosa vi viene da fare con il collo e la testa. Vi accorgerete che se tenete testa e collo fermi quando siete sulle tre e mezza, le 15:30 o tre e mezza, il collo si stira, giusto? Allora, provate a trovare il modo perché il collo non si stira. Ah, non si deve stirare. Non si, è meglio che non si stiri. Cosa si può fare perché il collo non si stiri mentre allungate il braccio in basso? Si piega sempre la testa un po' più. No. Non ti aiuta tanto quello. Provate. Contornare un po' con la testa. Potrebbe essere prima di arrivare alla mezza, può essere, ma quando siete proprio sul fianco, sulla mezza, se la mano va in giù, è difficile la testa rotoli, vi accorgerete che vi aiuta a sollevare leggermente la testa dal cuscino. Sollevarla significa staccarla in modo che l'orecchio destro vada un pochino verso la spalla destra. E quindi vi accorgete che come conseguenza, se il braccio destro appoggiato sulla testa scivola in giù e si solleva un po' la testa, il fianco sinistro, il lato sinistro, la cintura sinistra viene premuta sul pavimento. E poi da lì, piano piano, siete arrivate, facciamo un po' di matematica, da braccio avanti 3¼ a braccio destro in basso 3½, fate tutto a ritroso. Dalle 3½ andate alle 3:29, 28, 20, 17, fino ad arrivare alle 3¼. Un'ora alla volta, piano piano piano. Senza piegare il braccio. Quindi se non piegate il braccio, vi accorgerete che il movimento è con tutto il corpo. Si potrebbe dire che tutto il corpo è un braccio che si allunga e ritorna. Ma la testa deve ruotare, no? Sempre viene a fare così. Quando sei in quella posizione, sì. Dipende, la testa ruota, si solleva a seconda della direzione del braccio. Ovviamente, quando la mano destra è sull'anca destra e si allunga il braccio in basso, è un'inclinazione se questo è in piedi. E quindi la testa si solleva. Quando il braccio è avanti, è solo una torsione e quindi la testa ruota. Quindi non è sempre uguale il movimento in tutte le parti del corpo. Osservate ed ascoltatevi ed ovviamente il movimento naturale è sempre che quando una parte è in flessione è tutto in flessione, quando una parte è in torsione è tutto in torsione, a meno che non si faccia la differenziazione, ma il movimento naturale è molto semplice. E quando avete bisogno di riposo vi fermate anche se io non ve l'ho detto, vero? Supine. Ok, mettetevi supine tutte. E osservate se c'è qualche piccola differenza tra l'appoggio del lato destro e la spalla destra e di quello sinistro e spalla sinistra. E poi ruotate ancora una volta a sinistra e questa volta descriviamo il movimento che va dalle 3¼ indietro fino alle 3. Quindi siete messi a seggiolina, gambe piegate. No. Ancora a sinistra, sì. Ma le dove, Lisa? E sull'acca quando appoggio. Metto un cuscino sotto. Proviamo. Adesso da braccia avanti, una sopra l'altra, continuate a fare il movimento andando dalle 3 e un quarto alle 3. Quindi scivolate con la mano destra avanti e ritorno, poi 3 e 14. E 14, quindi andate verso la testa questa volta e ritorno, 3, 13 e ritorno, fino ad arrivare alle 3, dove il braccio arriverà ad essere allungato sopra la testa, sul prolungamento del busto. E osservate cosa succede quando siete arrivate alle 3. E il braccio destro è in alto, appoggiato per terra. Alto, avanti, basso, eccetera, sono sempre nel Feldenkrais rispetto alla posizione in piedi. Quando siete col braccio destro in alto, vale a dire appoggiato per terra verso il battiscopa della parete dietro di voi, cosa fate con il resto del corpo per allungare la mano? Qualcuno me lo sa dire? Ci si tira tutti col collo indietro, almeno a me viene così. Si inalta la schiena. Ma tu fai un altro movimento anche, che non è solo quello. Inalcare la schiena non serve, è un movimento in più tuo. Continua a farmi ascolta, vedrai che stai facendo anche un altro movimento che è quello che ti aiuta? No? Continua a farlo. Cosa stai facendo col fianco sinistro? Ah, mi vado verso il pavimento. No. Allunga il braccio destro. Cosa fai il fianco sinistro quando allunga il braccio? Lo vedo da qua. Vai in avanti. E giro come stesso. E ruota. Ma lo vedi che lo faccio? Sì. Allora, quando allungate il braccio destro verso l'alto, verso la parete, dietro di voi, tenendolo appoggiato sul pavimento, vi accorgerete che per allungare il braccio destro in alto sollevate un po' il fianco sinistro. Quindi adesso provate a farlo, mentre allungate il braccio destro in alto, sollevate il fianco sinistro. Non pensate a ruotare, in questo caso. La tua abitudine, come mi hai detto, è ruotare, ma è perché a te piace ruotare, quindi ruoti sempre comunque anche se non serve. Allora, siete sul fianco, il braccio destro è allungato, e questa volta vi accorgerete che quando allungate il braccio destro in alto sulle 12, il fianco sinistro si solleva e l'anca destra va verso il basso. E poi il braccio sta allungato, ma ritornate appoggiando il fianco e ritornando con il bacino, senza piegare il braccio. Bene girata sul fianco, quindi la testa guarda avanti, non verso il soffitto, perché siamo sulle 12. E adesso dalle 3 ritornate avanti e indietro alle 3 e un quarto, quindi dalle 3 ritorno, poi vado alle 3 e 1 e ritorno, alle 3:02 ritorno, fino alle 3:10, 14 e 3 un quarto. Il braccio è sempre allungato, non si piega mai il gomito. Si può appoggiare per terra? Cosa? Il braccio. È certo che sì, non si può. Si deve appoggiare. Se lo tenete sollevato, vi rigidite tutte. Quindi abbandonate il peso del braccio per terra, e andate, tornate dalle 3:15 alle 3 e dalle 3 alle 3:15. E vi riposate un po' supine, a pancia in su. Osservate l'appoggio di lato destro e lato sinistro, osservate l'appoggio del lato destro e del lato sinistro. E poi ritornate ancora una volta sul fianco sinistro. Mettete il braccio sinistro avanti e partite col braccio destro sulle 3:30, quindi il braccio destro è appoggiato sull'anca destra e descriviamo il quarto di cerchio che va dalle 3:30 a un quarto alle 4, alle 3:45. Quindi continuate muovendo il braccio destro in basso, quindi si solleva un po' la testa e si schiaccia il fianco sinistro e ritorno, e poi alle 3:31 ritorno, 32 ritorno, fino ad arrivare alle 3:45. Quindi vi accorgerete che tutto il corpo si aggiusta e da movimento di inclinazione laterale arriverete a un mescolamento di inclinazione e torsione fino ad arrivare alle 3:45 con le braccia aperte a croce. E vi accorgerete che alla fine, alle 3:45, il palmo della mano è in su, quindi ci sarà un momento nel quale, passando in queste ore, il palmo va in su, e per fare in modo che la mano si appoggi il prima possibile, contribuite al movimento potendo sollevare il ginocchio destro, ruotandomi un po' verso il soffitto con la testa e il torace. Quindi ciascuno di voi veda, a seconda della torsione della sua schiena, che è la sua, non quella di un'altra, quindi per ciascuno di voi sarà diverso, quanto deve staccare il ginocchio destro da terra. Staccare significa indirizzarlo verso il soffitto tenendo il piede destro appoggiato, quasi come per andare supine, pancia in su, con la gamba destra piegata. E quando siete alle 3:45, siete con le braccia aperte a croce e il palmo avanti verso il soffitto. E poi da là, piano piano, ritornate un minuto alla volta, sulle 3:30, quindi da braccia fuori, continuate, vado e torno, fino ad arrivare ad appoggiare la mano destra sull'anca destra. Vedo che ci sono tensioni nella spalla destra e nella schiena, mentre potreste risparmiarvele sollevando il ginocchio destro. L'importante è che la mano stia appoggiata, non che le ginocchia stiano una sopra l'altra, perché il lavoro è per le spalle oggi. Quindi tutto il corpo si asseconda perché le spalle imparino a muoversi in modo diverso. Detto in altre parole, continuando ad andare avanti e indietro, se voi tenete il piede destro appoggiato sopra l'altro piede o a terra e il ginocchio destro girato verso il soffitto, siete quasi a braccio in su e la spalla e il braccio destro si appoggiano senza alcuna fatica quando siete a braccia aperte. Ed è quello l'importante. Bella, muovere anche a destra. Tutto si muove. Avete tutto il braccio, quasi tutto il braccio appoggiato per terra mentre fate questo movimento? Sì. Destro. O appoggiate appena appena le dita? Le dita, la mano. Ok, allora fatelo in modo da appoggiare il più possibile tutto il braccio. E quindi girando il ginocchio destro verso il soffitto. O non avete capito o non lo sentite. Man mano, no? Non descrivete la circonferenza, eh? Continuate ad andare. 3:31 e ritorno, 32 e ritorno, 34, 3 e ritorno. Non è descrivere una circonferenza, ma è descrivere tutta una serie di raggi. Ma si muove anche il bacino, perché io sento... Tutto si muove. È incredibile qua. E certo, ma non capisco perché non sollevi il ginocchio destro. Ti stai facendo del male. No, lo sollevo un poco poco. Ma è troppo poco rispetto a quello che posso fare. Anche di più. Quasi del tutto. Ah, ma io faccio fatica a farlo. Aspetta, appoggiando il piede, appoggia il piede, tira sul ginocchio. Vai. Così? Sì, anche per terra se vuoi. Sì. L'ho detto, quasi arrivare a pancia in su, tenendo il ginocchio sinistro fuori e quindi vi si molla ed abbandona tutto il braccio e la spalla destra per terra. Faccio una fatica però. E fai quello che riesci. No, ma perché non ho muscolo, perché, certo. Perché qui c'ho la protesi, non è che mi fa male. Mi fa male il ginocchio. Avete capito? Perché a vedervi non direi. State ferme poi. No. Il ginocchio destro si solleva e potete arrivare ad appoggiare tutta la pianta del piede destro per terra. Col ginocchio destro girato verso il soffitto e la pianta è sotto la perpendicolare che scende dal ginocchio. Più in su il ginocchio destro quando lo sollevate. Se avete bisogno. Si muove. E poi vi riposate. Si muove tutto, sì, così. E certo che si muove tutto. Aiuta. Anche se appoggio tutto il braccio. Infatti. Allora, il movimento di una parte è il pretesto sempre per far muovere tutto il corpo. Cosa succede? Succede che se è una lezione in modo particolare per le spalle, tutto il resto del corpo si aggiusta per organizzare il movimento della spalla. E adesso ritornate sul fianco sinistro e fate il movimento da braccio avanti, no scusate, da braccio aperte in fuori, così, quindi dalle 3 e 3 quarti braccia aperte, quindi avete il ginocchio destro sollevato e il ginocchio appoggiato se fate fatica a stare tanto in torsione, dalle 3 e 3 quarti fino ad arrivare alle 4, quindi 3,45, 46, 47, quindi fino ad arrivare con il braccio destro allungato in alto verso il battiscopa e il pugno ruotato in giù. Male che la spalla si sente, non la guarda, ci si fa male. Andiamo sulle 4. Andiamo sulla 5. Un passaggio difficilissimo. È difficile, sì. Le 5 e le 4 sono robe. Aiuto. Non posso più. Oh. Mi spiego. Sì, è incredibile. Difficile. Abbiamo dei problemi a 10 e le 4. Avete problemi a 10 e le 4. Sì. Ma sapete perché avete dei problemi? Perché vi dimenticate di girarvi bene col ginocchio destro, arrivando col ginocchio destro in su verso il soffitto e tenendo il piede destro appoggiato. No, no, su il ginocchio, più in su, appoggiate la pianta del piede destro. No, no, no, ascolta, la pianta del piede destro, tutta appoggiata. Ah, e il ginocchio su. Vai, vai su. Si gira. Certo, perché a seconda del grado di torsione nella schiena delle persone è necessario sollevare più o meno il ginocchio. Ci sono persone che hanno tantissima torsione e stanno sempre sul fianco, con le gambe l'una sopra l'altra, e persone che assolutamente non ne hanno, che devono ruotarsi, come vi ho detto adesso, subito, immediatamente, perché non ne hanno. E è anche inutile copiarsi, perché ognuno ha una colonna vertebrale fatta molto così. Poi, se a 10 alle 4, nonostante questo, avete ancora problemi, potete, tra le 4 meno 10 e le 4 meno 5, quello fin dove avete bisogno, sollevare un po' anche la mano. E la riappoggiate quando, appena potete. Detto in altre parole, l'idea è che la mano e il braccio stanno appoggiati a terra il più possibile. Quando, nonostante l'aiuto di tutto il resto del corpo, ginocchio, eccetera, non ce la fanno, cosa si fa? Si solleva un po'. E poi si riappoggia subito, appena si può. Finché il sistema nervoso e il corpo impara a fare il movimento. Non è che c'è qualcosa che non va, se fai fatica puoi sollevare di più il ginocchio destro. Posso sollevare? Il ginocchio destro e appoggiare bene la pianta del piede destro. Ma no, rimane... no, no, no, sul ginocchio. Rimane costantemente su. No, adesso. Sul ginocchio. Allora, ferma lì, ferma lì, ferma lì. Stai il ginocchio su, ferma col ginocchio su, ferma lì. E vai su giù col braccio, ma il ginocchio sta lì adesso. Ah, ecco, viene spontaneo. Eh sì. Finché alla fine vedrete che per arrivare alle 4 o alle 3 se si è ritornati indietro, il palmo della mano destra è in alto, ruotato in giù. Quando si è sulle 4? Certo. Oddio, la fasolina. Fate quello che riuscite, staccate pure la mano se avete bisogno. E quando siete sulle 4 e il palmo della mano destra è andato in giù, le ginocchia tornano l'una sopra l'altra, perché non siete più in torsione, giusto? Ah, giusto, siamo appoggiati sul fianco. Siete sul fianco. E allora quando allungate il braccio destro in alto e siete sulle 4, oppure se siamo come se fossimo all'inizio, siete indietro di un'ora, siete alle 3, tra le 4 la stessa cosa in questo caso, allungate il braccio destro in alto, cercando di tenere il palmo della mano appoggiato a terra, in alto, intendo dire per terra, verso il battiscopa, e vi accorgerete ancora una volta che, come prima, sollevate il fianco sinistro e l'anca destra, e il bacino si muove verso il basso. E quando avete fatto, riposate supine. Scusa, quando si messi così però si lavora principalmente con la spalla per contrarre. Sì, quando sei da braccia aperte. Quando sono quello qui alle 4, alle 4 o alle 3.45 per andare verso le 4. E appoggiato il piede destro e il ginocchio destro sollevato, nel tuo caso, perché non hai super torsione, ed ovviamente in quella posizione, nel quarto, tra le 3 e 4 e le 4, ovviamente lavora di più la spalla e il torace. Quindi sentirete più lavoro nell'ascella e nel torace. Anche il resto del corpo lavora, ma in modo un po' diverso, meno chiaro. È più... c'è più influenza in quella parte. Bene. E quando sei qua si rotola un po', no? Eh sì. A giù. Eh sì. È un miscuglio di movimenti tra la torsione e l'estensione. Ok, vi riposate un po'. E poi, prima di immaginare farlo di seguito dall'altra parte, che potremmo anche non farlo, immaginarlo solo, comunque adesso vediamo, vi riposate un po' e poi lo fate completamente descrivendo il giro, prima in un senso, poi nell'altro. Allora, prima di fare tutto il giro, osservate come appoggia il lato destro e il lato sinistro. Poi, rotolate ancora una volta sul fianco sinistro con le braccia una sopra l'altra e cominciate a fare il giro tutto quanto, vado e torno, descrivendo tutti i raggi, i 60 raggi del minuto, e potete farlo per prima volta nel senso che vi piace di più, che vi viene più naturale, o in senso orario o in senso antiorario. Fatelo in quello che vi viene più naturale una volta e poi invertite e fate nell'altro. Attenzione che dovrà essere 60 minuti, quindi 60 minuti sono 60 volte i raggi, non 10 per fare il giro imbroglione. Ma dobbiamo fare tutto allora? Fai, non dovete niente, fai quello che puoi. L'idea è che salvi a descrivere tutto il movimento tic-tac della lancetta dell'orologio. Quando sei col braccio appoggiato sull'anca, è ovvio che la testa si sollevi. Puoi lasciarla giù benissimo, a volte si stira il collo. Sì, sì, puoi farlo benissimo, a volte si stira il collo, bisogna dire qual è che ti va meglio delle due a lunga scadenza. Non saprei. Sempre il principio che se una parte si inclina, tutto si inclina. E se una parte si flette, tutto si flette. Quindi, quando il braccio destro appoggiato sull'anca va verso il basso e la spalla destra quindi si inclina verso il basso e la colonna vertebrale si inclina in modo da chiudersi a destra, ovviamente il collo e la testa un po' si inclinano verso destra e quindi si sollevano. Ma si parla di millimetri. E poi quando avete finito, vi riposate un attimo e fate l'altro senso. Quando avete finito, vi riposate su di me, pancia in su. E osservate la differenza tra un lato e l'altro. Come appoggia tutto il lato destro e come appoggia tutto il lato sinistro, la spalla destra e il braccio destro. E poi arrotolate sul fianco destro. E questa volta, come facciamo spesso nel Pendentrace, trasferiamo il lavoro dall'altra parte, immaginandolo, visto che l'avete fatto a destra, quindi l'avete appreso, il sistema nervoso sa più o meno com'è, lo immaginate a sinistra, quindi vi mettete sul fianco destro seggiolina, tronco a 90 gradi sulle cosce, cosce a 90 gradi rispetto alle gambe, braccia avanti e senza farlo, immaginate tutto il movimento che questa volta va dalle un quarto alle 4 alle 4 alle 4 e un quarto alle 4 e mezza. Quindi siete girate dall'altra parte e sareste sulle 9 dell'orologio. Le 12 sarebbero sopra la testa, le 3 dietro di voi e le 6 in basso. E cercando di evitare di pensare ai fatti vostri, perché a volte con l'immaginazione le persone pensano ad altro e allora non funziona, piano piano piano immaginate di descrivere, prima nel senso che vi piace di più, tutto il cerchio fatto di raggi, ovviamente non la circonferenza, ma i raggi avanti indietro partendo in senso orario o in senso antiorario, memorizzando ed ascoltando tutta è la conseguenza del lavoro del braccio nel resto del corpo, quando si sollevava la testa, quando si sollevava il fianco destro, l'anca sinistra andava in giù, come si metteva un palmo, l'altro. Osservate tutte le particolarità del movimento. Guardiamo. No, lo immaginate solo. Ah, sei più solo. Per il momento lo immaginate solo. E immaginarlo bene non ci si impiega così poco. Quindi respirate e proprio più lo immaginate nei dettagli, quando lo fate meglio è. E poi quando vi pare di aver immaginato, lo fate. Una volta in senso orario ed un'altra volta in senso antiorario. Poi osserveremo gli appoggi e chi vuole a casa può rifare completamente tutto il lavoro distribuito su tutta l'ora dall'altra parte. Un'altra volta. Chi deve andare, osserva gli appoggi e vada, lasciando tutto giù che ci penso io. Visti i problemi di disco orario. E osservate, gli altri osservino piano piano come passa il movimento, cosa muovono. Anche senza. Penso, no, se posso. Grazie, arrivederci. Attenzione ad aiutarti con la gamba, appoggiando la pianta del piede per terra, il sinistro, in questo caso sollevando il ginocchio sinistro per bene verso il soffitto se ne ha bisogno. Quindi la spalla si può abbandonare a terra. E una volta che avete fatto il giro in un senso, lo fate nell'altro. E quando siete arrivati, invertite il senso, fate il giro dall'altra parte e quando avete finito, vi fermate spine e vi riposate. Girare la mano. Infatti? Poi non so. Un po' di... Qui si lavora solo con la spalla. A quel punto di più, diciamo, puoi sempre coinvolgere il torace, però è ovvio che è più coinvolta la spalla e la scapola e il collegamento con la clavicola e il torace, meno di per sé la parte bassa. Quando siete arrivate, vi mettete supine, arretrate, la pancia in su e cominciamo a riosservare gli appoggi a terra partendo dai talloni e pian piano arrivando fino alla testa, osservando le differenze, se ve le ricordate, rispetto all'inizio. Quindi osservate come sono messi i talloni, i polpacci, quanto distano le ginocchia, le cosce, da terra, come appoggia il bacino a destra, a sinistra. Come messo il coccige, l'osso sacro, l'arco lombare. Se si è abbassato. E poi come sono messe le vertebre toraciche, le costole, le scapole, il collo, la testa. E infine come sono messe le spalle e le braccia. Poi quando siete pronte, lentamente arrotolate su un fianco, vi sedete, vi alzate in piedi, osservate come state in piedi e in piedi, prima di andarvene, provate a descrivere col braccio delle circonvoluzioni, tutto il cerchio, in piedi, con un braccio o con l'altro. In piedi. Piano piano, vi alzate in piedi, rimanete ferme, osservate come siete in piedi, come è allineato il corpo, le spalle, le braccia, e poi proprio descrivete delle circondizioni, in modo da osservare rispetto al solito come vengono.